Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana, di questo 2017, insieme all'Associazione Difesa Consumatori, ben ritrovato a Gianluca Codognato. Un saluto a te, Mirko, e ai radioascoltatori. Allora, siamo alla vigilia di questa data fatidica, che è quella dei saldi invernali, già partiti in alcune regioni del Sud Italia. Domani il Veneto insieme a tutte le altre regioni. Da quando Blu Radio Veneto collabora con l'Adico, questo è un caposaldo appunto di inizio anno, cioè la vostra campagna fotografa il tuo acquisto. Sì, l'abbiamo lanciata alcuni giorni fa, proprio perché è una campagna che vuole andare un po' a stanare alcuni comportamenti scorretti di alcuni commercianti. Certo, non vogliamo fare di tutta l'erba un fascio, e ormai è 5 anni che portiamo avanti questa campagna con un certo successo, e praticamente consiste in questo: il futuro acquirente, cioè chi vorrà acquistare un prodotto nel periodo dei saldi, lo invitiamo a fotografare il prezzo di quel prodotto prima dei saldi, per vedere se poi da domani in poi veramente questo prodotto avrà un prezzo realmente scontato. Ecco, diciamo, è un modo come un altro per tutelare i consumatori in un periodo che riteniamo molto importante, perché Mirko, rispetto dei saldi estivi, i saldi invernali veramente possono rappresentare un'opportunità, lo diciamo sempre, per una grande opportunità, anche quegli estivi, ma quelli invernali insomma sono sicuramente più, propongono delle offerte più vantaggiose, nel senso che ci sono prodotti sicuramente più costosi rispetto a quegli estivi. E come al solito riteniamo che in realtà gli sconti, ma questo ormai lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo dicono anche i giornali, sono cominciati già da tempo, anzi diciamo che gli sconti perdurano tutto l'anno, che vengano chiamate liquidazioni totali, promozioni o lo sconto alla cassa, però in realtà il commerciante, soprattutto insomma da quando la crisi si è fatta veramente più pesante, tende ad avvantaggiare i propri clienti scontando i prodotti anche prima dei saldi. Ovviamente questo, come sempre, fa sì che bisognerebbe andare proprio a rivedere la normativa, perché ovviamente questi tipi di comportamenti di alcuni commercianti penalizzano altri commercianti che invece seguono le regole in modo pedissequamente, per cui insomma sarebbero da rivedere. Questa cosa la diciamo da tempo. Per quanto riguarda questi saldi, diciamo, di questo anno, noi crediamo che vedranno un buon numero di acquisti, insomma, nel senso che molti cercheranno di sfruttare questi saldi, come sempre, anche perché tante persone, Mirko, sappiamo benissimo, hanno rinunciato a certi regali natalizi, tipo le scarpe, sapendo benissimo che dopo 5-6, dopo una decina di giorni, lo stesso prodotto si potrà trovare anche a metà prezzo. Quindi insomma, diciamo che siamo convinti che, come anche negli altri anni, insomma, ci sarà un buon boom di acquisti. Come abbiamo potuto rilevare da una nostra indagine, la nostra consueta indagine, appunto 2 negozi su 3 gli sconti li hanno già ampiamente cominciati anche già alla cassa, quindi sappiamo benissimo che già fino ad oggi, se io vado in un negozio e chiedo uno sconto, sicuramente 2 negozi su 3 me lo fanno. E pensiamo che anche se i saldi rappresentano di solito un buon momento per i negozi del centro città, riteniamo che comunque ancora una volta farà da padrone saranno i centri commerciali, soprattutto in una zona, quella veneziana, che è circondata appunto dalla grande distribuzione, e che ha una grande distribuzione anche che sia molto specializzata nell'abbigliamento, per cui insomma staremo a vedere come andrà la solita battaglia, diciamo, tra negozi del centro e negozi dei centri commerciali. Temiamo che anche per questioni di viabilità, insomma, anche su questo fronte la grande distribuzione la farà da padrona. E questo è un dibattito molto aperto. Qualche giorno fa abbiamo sentito proprio alcuni dei commercianti proprio su questo tema, che è molto dibattuto. Insieme alla campagna, oggi appunto l'ultimo giorno prima dei saldi in Veneto, quindi potete approfittare anche di queste ore. Se avete adocchiato qualcosa, fate la foto al cartellino, al prezzo e all'oggetto che vorreste acquistare, e domani tornate e verificate qual è effettivamente lo sconto. Oltre a questa campagna, Gianluca, c'è anche un piccolo decalogo che voi diffondete. Sì, è un decalogo che può sembrare insomma un po' ripetitivo per il semplice fatto che tutte le associazioni, ma anche gli stessi associazioni commercianti, insomma, lo dicono, lo spiegano ogni volta che ci sono i saldi, però alla fine risulta sempre molto utile perché appunto in questo periodo insomma si rischia sempre di prendere i cosiddetti bidoni. Allora noi anzitutto diciamo appunto proprio per evitare il bidone la prima cosa fondamentale è quella di non farsi prendere dalla frenesia di voler comprare a tutti i costi, insomma se non c'è un prodotto che riteniamo, un'offerta che riteniamo veramente vantaggiosa, non dobbiamo comprare per forza solo perché siamo in saldi, in periodo di saldo. Poi chiaramente sarebbe anche il caso di controllare sempre che il negoziante alla fine non si rifili non un prodotto in saldo ma semplicemente degli avanzi di magazzino. Come invitiamo con la nostra campagna, sarebbe bello, sarebbe giusto confrontare appunto il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato, cioè andare a vedere prima dell'inizio dei saldi quanto è il prezzo della merce che vogliamo comprare e poi verificare che sia stata veramente scontata. E chiaramente dopo, prima anche di acquistare, chiaramente dobbiamo vedere un attimo che non ci siano difetti nel prodotto che vogliamo acquistare. E diciamo che consigliamo ovviamente di provare sempre il capo di abbigliamento che vogliamo portare via in saldo. E diciamo che un'altra cosa che molto spesso ci viene richiesta è quella un po' dell'utilizzo della carta di credito. E sappiamo, dobbiamo dire che il negoziante convenzionato con una carta di credito è sempre tenuto ad accettarla anche in periodo di saldi, quindi non facciamoci fregare dal negoziante che ci dice che in periodo di saldi non accetta la carta di credito. E naturalmente bisogna vedere che il prodotto che abbiamo visto in vetrina sia poi lo stesso che poi ci viene consegnato all'interno del negozio. E un'altra cosa importante, diffidiamo degli sconti superiori al 60%, al 60-70%, a quegli sconti incredibili che evidentemente nascondono qualcosa che non va. E a stare attenti anche molto al budget che si è imposti, quindi imporsi un budget prima di andare a fare gli acquisti e poi cercare di rispettarlo, perché sennò veramente ci si può trovare spiazzati. Ci si fa prendere la mano, effettivamente. Ci si fa prendere la mano, esatto, soprattutto diciamo il mondo femminile, anche se bisogna dire che soprattutto negli ultimi anni anche noi maschietti insomma ci dedichiamo molto allo shopping nel periodo di saldi. Se ci fossero i saldi nella tecnologia oltre che nell'abbigliamento, forse ci sarebbe una concorrenza maggiore anche tra i sessi. Allora, associazionedifesaconsumatori.it, se doveste avere dei problemi, ma contiamo che la maggior parte appunto siano tutti corretti negozianti, però può sempre capitare. Comunque voi siete a disposizione, uffici aperti. Grazie a Gianluca Codognato, ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie a te, Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.